dove nasce una speranza. C'è casa mia, c'è casa mia, là dove spira il vento, lì c'è casa mia, c'è casa mia. Immersa nel verde e nella natura, c'è casa mia, c'è casa mia. Tra campi elisi e verdi pascoli, c'è casa mia, casa mia. La casa mia, la casa mia. La casa mia, la casa mia. La casa mia, la casa mia. La casa mia. Dove c'è un falco sulla roccia, è casa mia, è casa mia. Là dove l'acqua scende goccia a goccia, è casa mia, è casa mia. E prendo la macchina e vado a casa mia, a casa mia. È un giardino chiuso da un recinto, casa mia, casa mia. Na, na, na. Casa mia, casa mia. Na, na, na. Casa mia, casa mia. Na, na, na. Casa mia, casa mia. Na, na, na. Casa mia. Dove sto bene con me stesso, è casa mia, è casa mia. E mentre sto suonando la chitarra, a casa mia, a casa mia. E dentro il mio studio mentre leggo un libro, a casa mia, a casa mia. E mentre sto pregando nella mia stanza, a casa mia, casa mia. La, na, na. Casa mia, casa mia. La, na, na. Casa mia, casa mia. La, na, na. Casa mia, casa mia.